cioè ne hanno tanti e anche con forme diverse, perché se hanno fatto un lungo percorso sono belli arrotondati, se sono tutti scabrosi, un po' come gli altri, si sono amalgamati subito e non hanno avuto modo di addolcirsi, stava facendo con il ciocco di la dimensione. Questa è la successione, quelle sopra, cioè in realtà c'era la successione, quella più vicina alla piana, che era più coltivata,